è per te. Questo bacio nel vento te lo manderò lì, con almeno altri 100, è per te. Forse non sarà molto la tua storia, lo so, meritava più ascolto e magari chissà se io avessi saputo t'avrei dato un aiuto. Che importa ora che puoi prendere per la coda una cometa e girando per l'universo te ne va. Puoi raggiungere forse adesso la tua meta, quel mondo diverso che non trovavi mai, solo che non doveva andar così, solo che tutti ora siamo un po' più soli qui, è per te questo fiore che ho scelto. Te lo lascerò lì, sotto un cielo coperto, mentre guardo lassù, sta passando novembre. E tu hai 20 anni per sempre. Ora che puoi prendere per la coda una cometa e girando per l'universo te ne va. Puoi raggiungere forse adesso la tua meta, quel mondo diverso che non trovavi mai. Baby.